Gentilissimi ascoltatori di Radio San Giuseppe, Ave Maria a tutti e ben ritrovati sulla frequenza della nostra carissima web radio. Siamo nella settimana che ci vedrà festeggiare pieni di gioia la festa del 19, la festa, la solennità di San Giuseppe, sposo di Maria, e per cui penso che questa puntata e anche questi giorni per tutti noi che amiamo e che cerchiamo di nutrire una sincera devozione verso il più santo dei santi avranno un significato del tutto particolare. Ecco, io vi auguro di poter vivere con tutto il raccoglimento e la devozione possibile questa festa. Sapete, purtroppo non è festa di precetto nell'attuale disciplina della Chiesa, ma è comunque una solennità, per cui non è che vi raccomando, vi straraccomando, se possibile, di considerarla come se fosse domenica, per cui di partecipare alla Santa Messa e anche in quel giorno, se possibile, di compiere qualche gesto particolare di devozione a San Giuseppe. Basta anche fare una preghiera che magari non stiamo facendo, no? E ovviamente io spero che anche siamo nel mese dedicato a San Giuseppe, quindi è un cocktail di eventi particolari, quindi spero che stiate facendo qualche gesto particolare. Io ho raccomandato e lo sto facendo personalmente il Sacro Manto quotidiano, insomma, in questo mese, proprio perché il Sacro Manto per ottenere grazie dura 30 giorni e a me è sempre sembrato un ottimo modo per santificare il mese di marzo, proprio offrire questo omaggio a San Giuseppe anche per ricevere qualche grazia particolare da lui in questo mese, no? Ecco, quindi voi mi perdonerete questa piccola introduzione che è fondamentalmente una partecipazione della gioia che stiamo vivendo. Mentre per quanto riguarda il merito della puntata di oggi, noi dovremo concludere questo breve ciclo di meditazioni di San José María Escrivá sulla figura di San Giuseppe, che chiude appunto con un excursus, con una serie di pensieri e di considerazioni sul rapporto tra Gesù e San Giuseppe. Ecco, è un tema che durante queste ormai nostre quasi biennali, tra poco compiremo 2 anni di mia presenza su questa radio, ci siamo tante volte detti, ma come dicono i proverbi romani, plura non nocent e repetita iuvant, quindi la molteplicità delle cose sicuramente non nuoce, e le ripetizioni giovano, anche perché noi purtroppo per le miserie della nostra condizione umana siamo facili a dimenticare e a volte siamo anche un po' non troppo facili a comprendere, anche per l'inadeguatezza degli strumenti di comunicazione, quindi in questo caso di chi parla, che potrebbe certamente non essere stato sufficientemente chiaro o incisivo, e quindi ripercorreremo durante questa meditazione delle cose che in qualche modo già abbiamo affrontato, quindi non del tutto inedite, salvo forse qualche piccolo particolare, ma che comunque ci giovano e che speriamo siano anche, diciamo, una sorta di rampa di lancio, insomma, per prepararci un po' meglio alla grande festa di giovedì. Ecco, detto questo, cedo subito la parola a San José María Escrivá, introducendoci, ecco, nel vivo della meditazione odierna. Il rapporto tra Gesù e San Giuseppe. Già da tempo amo recitare una commovente invocazione a San Giuseppe che la Chiesa stessa ci propone tra le preghiere di preparazione alla Santa Messa. Io questa la conosco bene. O beato Giuseppe, uomo felice a cui fu concesso che quel Dio che molti re vollero vedere e non videro, sentire e non sentirono, non solo fosse date visto e sentito, ma anche portato in braccio, baciato, vestito e custodito. Prega per noi. Bellissima questa preghiera, no? Che con brevi parole ci introduce proprio dentro questo arcano mistero di questa grandissima intimità di San Giuseppe, no? Riprendo la lettura. Questa preghiera ci servirà a entrare nell'ultimo tema che voglio toccare, il rapporto intimo e affettuoso tra Giuseppe e Gesù. La vita di Gesù fu per San Giuseppe una continua scoperta della propria vocazione. Abbiamo già ricordato quei primi anni pieni di eventi in apparente contrasto, glorificazione e fuga, dignità dei magi e povertà del presepio, canto di angeli e silenzio degli uomini. Bellissima questa immagine, a mio avviso. Quando giunge il momento di presentare il bambino al Tempio, dopo 40 giorni, Giuseppe, che porta la povera offerta di un paio di tortore, ascolta Simeone e Anna che proclamavano che Gesù è il Messia. Suo padre e sua madre, ci narra San Luca, si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Qui apro una parentesi, è detto fra me e voi, suo padre si stupiva, sua madre un po' meno, come si legge negli scritti di Maria Valtorta, però sicuramente San Giuseppe era pieno di stupore, no? Perché conosceva molto meno su Gesù di quanto conoscesse la sua sposa. Più tardi, quando il bambino rimane nel Tempio senza che Maria e Giuseppe se ne avvedano, ritrovandolo dopo 3 giorni, essi, è sempre San Luca che narra, restarono meravigliati. Ecco, quindi stupore e meraviglia. Oggi forse preferisco non leggere tutto di un fiato, preferisco fare delle piccole grosse, ecco, commentare in diretta perché potrebbe essere migliore. Allora, lo stupore e la meraviglia, gentilissimi ascoltatori, guardate, sono due disposizioni molto belle dell'animo e che sono assolutamente inevitabili, quasi quotidiane, quando uno si mette alla sequela del Signore. C'era un libretto uscito qualche tempo fa di Alessandra Borghese, non voglio fare certamente pubblicità, mi viene in mente perché mi dà uno spunto, che si intitolava Con occhi nuovi. Alessandra Borghese, non so che fine abbia fatto adesso, quando scrisse quel libro aveva appena da poco vissuto l'esperienza della conversione. Allora si dice che dopo l'esperienza della conversione si vedono tutte le cose appunto con occhi nuovi, e quindi si colgono anche nelle vicende del quotidiano, delle sfaccettature, delle fonti di meditazione, eccetera eccetera, tali che prima non c'erano, e che si passa di stupore e meraviglia continui. Faccio un esempio personale, l'ho detto anche in qualche altro intervento pubblico, cioè io quando ho la possibilità di assistere a qualche spettacolo della natura, questo mi favorisce in una maniera quasi istantanea un grandissimo spirito di adorazione nei confronti di Dio, perché io non guardo i fenomeni, cioè, ma mi viene quasi automatico non guardare i fenomeni nella loro intrinseca bellezza o nel freddo, come dire, nella fredda osservazione degli scienziati che poi cominciano a cercare tutte le spiegazioni, ma io dico benedetto sei tu Signore che hai fatto pure questo, insomma, no? Cioè, contemplare i colori del creato, i fenomeni del creato, i colori naturali degli animali, delle piante, cioè. E questo è una cosa accessibile a tutti quanti, no? Certamente da dove deriva lo stupore e la meraviglia? A mio avviso deriva dal fatto che io vedo queste cose vedendoci dentro la mano di chi l'ha creata, cioè del verbo per mezzo del quale sono state fatte tutte quante le cose, no? Quindi, chiusa la parentesi, riprendo la lettura. Giuseppe resta sorpreso, si meraviglia. Dio gli ha rivelato i suoi piani ed egli cerca di capirli. Come ogni anima che vuole seguire Gesù da vicino, egli scopre subito che non è possibile camminare con passo stanco, che non si possono fare le cose per abitudine. Dio infatti, altra sacrosantissima verità, non accetta che ci si stabilizzi a un certo livello, che ci si adagi su posizioni raggiunte. Dio esige costantemente di più. E le sue vie non sono le nostre vie terrene. San Giuseppe, meglio di chiunque altro, prima o dopo di lui, ha imparato da Gesù a essere pronto a riconoscere le meraviglie di Dio, a tenere aperti l'anima e il cuore. Ecco un aspetto particolare, qui riprendo il commento, sapete che c'è un proverbio che dice chi si ferma è perduto, verissimo questo. Anzi, per noi cristiani cioè, è vero il contrario, chi si ferma torna indietro. Cioè, perché non è possibile fermarsi. San Paolo dice non abbiamo qua giù una città stabile, o vai avanti o vai indietro, e se tu ti metti alla sequela del Signore si andrà ogni giorno, dice Sant'Ignazio, di Loyola, di bene in meglio, di bene in meglio, di meglio in migliore ancora, di migliore in ottimo, di ottimo in eccellentissimo, quello che uno vuole, no? Con una variante di questa sorpresa e di questa meraviglia, ecco, che è il fatto che Dio è sempre un grandissimo per noi sconosciuto. Io se c'è una cosa, guardate, gentilissimi ascoltatori, sono ancora relativamente giovane, nell'animo mi ci sento molto, però quando mi metto a pensare dico, beh, sono proprio giovanissimo, io ho 43 anni, di cui gli ultimi 10, quasi 11, passati a vivere un sacerdozio, come dire, intensissimo di esperienze, di cui devo assolutamente ringraziare il Signore, che mi ha concesso insomma una conoscenza di talmente tante cose che io sono il primo a cantare in ininterrotto Magnificat. Però vi assicuro che quasi quotidianamente io imparo qualcosa di Dio che non sapevo, e che ci sono stati momenti della mia esistenza in cui quello che già sapevo su Dio è stato un ostacolo. Perché? Perché io mi illudevo di sapere, di aver capito già tutto, quando quello che sai è niente. E non deve mai essere usato per proiettare quegli schemi che tu ti sei costruito su queste piccole nozioni che c'hai di Dio, e per dire questo non è possibile, questo non accadrà mai, eccetera, eccetera. Vi ricordate San Pietro, quello che disse a Gesù, che figura che ha fatto, no? Lo riconosce per il Cristo. E quindi si becca subito la nomina primo papa. Non passano manco 5 minuti, Gesù annuncia la passione e dice: Dio te ne scampi e liberi, Signore, questo non ti accadrà mai. Ecco la forma mentis, cioè lì San Pietro doveva avere l'umiltà, dice: qui c'è qualcosa che io non so, qui c'è una sapienza nascosta, capite? Cioè, perché chi parla ti dimenticare il figlio di Dio fatto carne, tu non ti puoi permettere di dire: Dio te ne scampi e liberi, questo non accadrà mai. Così noi, dinanzi all'agire di Dio, non possiamo, ecco, accostarci con superbia, con arroganza e con schemi rigidi. Io sinceramente penso a volte anche, parlo in termini anonimi, a certi atteggiamenti che si vede in qualche uomo di chiesa, non, che a me fanno un po' spavento, nel senso, no? Di dire: calma ragazzi, calma, siate cauti, ecco. Non siamo troppo frettolosi nel giudicare le opere di Dio, eh? Prendiamoci tutto il tempo necessario, tutta la preghiera necessaria e tutto il discernimento necessario. Vedete che San Giuseppe, meglio di chiunque altro prima o dopo di lui, ha imparato da Gesù a essere pronto a riconoscere le meraviglie di Dio, a tenere aperti l'anima e il cuore. Dio non cessa di stupire, a volte in maniera completamente diversa e aliena da quello che noi ci attenderemmo. Le vie di Dio non sono le nostre vie. Proseguo la lettura. Giuseppe, ma se Giuseppe ha appreso da Gesù a vivere in modo divino, oserei dire che nell'umano egli ha insegnato qualcosa al figlio di Dio. C'è qualcosa che non mi soddisfa nel titolo di padre putativo con cui sovente si designa Giuseppe, perché induce a pensare che i rapporti fra Giuseppe e Gesù fossero freddi e esteriori. È vero che la nostra fede ci insegna che non era padre secondo la carne, ma non è questa l'unica paternità. Mi permetto di fare una piccola glossa a San José Maria: non solo che non è l'unica paternità, ma non è neanche detto che sia la vera paternità. Io, scherzando con i ragazzi miei, gli dico sempre, dico: guardate ragazzi, se vostro padre è degno di questo nome, io gli concedo che il suo amore sia superiore al mio nei vostri confronti. Ma se vostro padre non è degno di questo nome, è tutto quanto da dimostrare che degno sia, cioè che il suo amore sia superiore al mio, anche se io non sono il vostro padre biologico. Perché un conto è essere padre, un conto è fare il padre, capite? Quanti uomini hanno in giro figli sparsi per tutto il mondo e non sanno nemmeno ad averli, o li hanno fatti e li hanno abbandonati, cosa gravissima di cui risponderanno davanti a Dio, senza considerare e senza prendersene cura. Ora riprendo la lettura. A Giuseppe, leggiamo in Sant'Agostino, non solo si deve il nome di padre, ma anzi gli si deve più che a nessun altro. E come era padre, tanto più profondamente fu padre quanto più casta fu la sua paternità.

Cioè, io ho sempre detto, dico scherzando, dico gli iPhone, eh? Secondo voi Gesù era capace a fare un iPhone? Ma certamente sì, e anche di meglio, e anche i telefonini che non sono ancora usciti in commercio, no? Ma sarebbe stata, come dire, una inutile sfoggio di potenza. E quindi, avendo lui stesso scelto di assoggettarsi al realismo e alla dinamica dell'incarnazione, ha voluto aver bisogno di San Giuseppe, questo chiaramente salva la sua divinità, e quindi in qualche modo, da un punto di vista umano, di abitudine, di stile lavorativo, addirittura assomigliare a questo santo, no? Questo anche, se vi posso permettere una battuta, anche il nostro Gesù, capite? Gesù è unico, no? Però i portatori di Gesù sono tutti quanti diversi, cioè ciascuno porta Gesù con lo stile proprio. Ecco, l'importante è che sia Gesù realmente, d'accordo? Quindi, perché poi le differenze di stili sono secondarie. Ecco, il problema è che l'importante è che sia sempre Gesù realmente. E Gesù ci sta a questo gioco, quindi accetta di essere portato dallo stile del prete X o del prete Y. Non accetta tanto, questo, che Dio ce ne scampi e liberi e San Giuseppe ci aiuti, che sia portato un Gesù travisato, quindi un'altra persona, non lui, ecco, con la scusa di dargli, diciamo così, in qualche modo il proprio tratto caratteristico, che del resto poi è inevitabile, perché siamo degli unici da un punto di vista umano e ci portiamo questi unici tutto ciò che facciamo. Andate da Giuseppe, concludo con queste parole di San José Maria Escrivá, e che possiate tutti trascorrere una santissima festa dedicata al più santo dei santi. Vi do la mia benedizione. Ave Maria.